È stata una battaglia quasi all'ultimo voto. La notte passata è stata rinominata la notte dei due cancellieri, perché sia Armin Laschet per la CDU-CSU sia Olaf Scholz per la SPD hanno rivendicato la cancelleria. Ma diciamo che oggi, con l'arrivo dei risultati, che sono ancora provvisori ma piuttosto certi, è evidente che la SPD comunque si afferma davanti alla CDU. Proprio poco fa c'è stato il discorso alla Willy Brandt House di Olaf Scholz, che ha ricevuto il tradizionale mazzo di fiori. Olaf Scholz è stato molto chiaro, ha detto: questo voto è un mandato chiaro per una Ampel coalizione. Ampel coalizione significa una coalizione a semaforo, ossia dai colori dei tre partiti che la compongono, quindi la SPD, i socialdemocratici, la FDP, i liberal liberisti e i verdi. Ma ha anche ribadito che sempre questo voto è stato anche una dichiarazione, un intento di inviare, di mandare la CDU e la CSU all'opposizione. Intanto dalla parte di CDU c'è Armin Laschet, che sembra non ammettere la sconfitta, o perlomeno fa finta di nulla, mentre dal partito arrivano dei moniti. Sembra che ci sarà una resa dei conti sicuramente nel Partito Popolare, tanto che oggi il primo ministro della Sassonia, Kretschmer, un membro importante del partito, ha dichiarato che questa è stata una grande sconfitta e il partito dovrà iniziare ad analizzarla. Quindi al momento quello che succederà molto probabilmente saranno degli incontri tra i tre partiti che formeranno la Ampel coalizione, anche se ieri, durante il dibattito post-elettorale che si è tenuto nella TV pubblica, Christian Lindner, il leader di FDP, ha dichiarato di voler iniziare a trattare con i verdi. Quindi diciamo che verdi e liberali sono l'ago della bilancia del prossimo governo, e saranno in parte loro alla fine a decidere se ci sarà questa Ampel coalizione o ci sarà una probabile Giamaica coalizione. La Giamaica coalizione, sempre dal colore dei partiti, in questo caso sarebbe con CDU, CSU, ma con verdi e liberali. Diciamo che questa è un'eventualità un po' più improbabile, ma ancora è presto per dirlo. Infine, numericamente è anche possibile una nuova edizione della grosse coalizione, ossia tra SPD e CDU, CSU, ma politicamente sembrerebbe alquanto improbabile, anche perché CDU, CSU dovrebbe accettare un ruolo minoritario nella coalizione. Infine, due note su questo voto. Innanzitutto, i due più grandi partiti sono entrambi sotto al 30%, come abbiamo visto con CDU, che perde più dell'8%, e insieme rappresentano poco meno del 50% dell'elettorato. Questo mostra una frammentazione della società tedesca. Per fare un esempio, nel 2002 ci fu una situazione molto simile: Stoib della CSU, candidato per l'Unione, quindi CDU CSU, contro Gerhard Schröder. Vinse Schröder, ma durante la notte diciamo che c'era una battaglia all'ultimo voto, ma si parlava di 38,5% a 38,5%, quindi diciamo che la situazione è cambiata nel giro di 15 anni. L'eredità di Merkel, diciamo il vuoto lasciato da Merkel, sarà difficile da riempire, però quello che emergeva un po' da questo voto era un desiderio di cambio, un cambio che poi si è spesso con la continuità. Non c'è stato questo grande consenso per i verdi, che volevano un cambiamento radicale sulla politica climatica, però c'è stato un cambiamento, diciamo è cambiata la faccia della grosse coalizione, se così possiamo dire, anche perché Olaf Scholz è stato ministro delle finanze e vice cancelliere nell'ultimo governo e rappresenta, diciamo, più di tutti la continuità con Angela Merkel, anche non essendo dello stesso partito. La rappresenta perché tutta la sua campagna elettorale è stata basata su questo effetto che potremmo definire fit to be Merkel, ossia assomigliare più possibile a Merkel, anche non tanto nella gestualità ma nel modo di fare. Un'ultima battuta ti chiedo invece sul risultato molto deludente della Linke. Gli stessi vertici hanno detto: abbiamo sbagliato e dovremo fare i conti con questa cosa. È una scia oppure è una delusione di questa tornata elettorale? Diciamo che è un po' una delusione. I verdi perdono circa il 4% e sono anche lontani rispetto alle aspettative dei sondaggi. Diciamo che li davano intorno al 7%. Anche Die Linke dovrà fare sicuramente un po', ci sarà una resa dei conti all'interno del partito, un partito molto frammentato su diversi aspetti, e proprio oggi si incontreranno i vertici del partito per discutere di questa sonora sconfitta. Tra le altre cose, in percentuale di Linke non riesce a superare lo sbarramento che è al 5% e il partito ottiene il 4,9%, però ricevendo 3 mandati diretti nella parte uninominale del sistema elettorale tedesco, di Linke riesce a formare un gruppo all'interno del Bundestag.